Tamari. Tamari. Tamari. Oh, cazzo. Tamari. Quanta paga, il cazzo che paghete? Ti ho chiamato anche prima. Ah! Ti ho chiamato anche prima quando hai messo la portante, non mi ha risposto. No, avevo abbassato il volume perché stavo guardando le facce sulle ricopra, capito? Forse per quello ti ho sentito. Va bene. Cosa hai fatto? Ho modificato quell'annuncio là, non lo vuole più nessuno. Ah va, non lo vuole più nessuno ai subrici. Se la biglia cuffia, se vuoi fare. Ma non si può dare. Non si può fare, dai. E preghiamoci la puttedine. Preghiamoci di lui. Vabbè, io l'ho messo, poi se ci contatta qualcuno, se no, pazienza. Con l'altro prezzo sì. Stasera stesso era stata fatta, capito? Ma poi ho aumentato e non lo vuole più nessuno, cioè non lo vuole più nessuno, adesso vediamo se interessa ancora a qualcuno, se no. Infatti, non ti preoccupare, capito? Se non lo vuole già me l'attacco da Rainoghi, perché lo aggiungo, sono tra i Cobra e quello lì, capito, la barca di soldi, capito? Per cui non ne vediamo, vabbè, non ne vediamo, se non mi danno quella cifra no, assolutamente, non è possibile. Io ripeto, essendo ignoranti in materia, è chiaro che non sapevo cosa fare, infatti io, cosa parlare al telefono in persona. Hola. Capito, mi dai? C'è uno che ha chiamato, avanti. Non vuole rispondere. Il Roswell ha controllato l'errore. No, devo fissarmi la mia antenna, Gio Maria, ancora, perché nell'ho scesa per fargli la manutenzione, capito? Adesso domani la porto su. Ehi, va benissimo. Va bene, tu. Sempre come prima, ok? Ok. Va bene, già sono in ascolto, dai. Ok, a dopo. Ciao.